chiusi, siamo in chiusura. Buona domenica a tutti, grazie a Walter per la regia, grazie a voi tutti per la vostra cortese attenzione. Se ce la facciamo, siamo ancora qui domenica prossima alla stessa ora. Arrivederci. E che Allah vi conservi la vista. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva.